Europa 24. Domani il vertice europeo di Riga, a preoccupare sempre il caso Grecia. Nonostante le rassicurazioni del ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis che un accordo è vicino, l'euro è in calo rispetto al dollaro dopo che Nikos Philis, il presidente del Parlamento greco appartenente a Syriza, ha detto alla TV Antenna 1 che la Grecia non farà un rimborso al Fondo Monetario Internazionale che scade il 5 giugno se non ci fosse per allora nessun accordo con i suoi creditori. Intanto il governo greco sta cercando di ottenere un unico accordo globale con i creditori internazionali per porre fine all'austerità e aprire la strada alla crescita del paese mediterraneo. Il premier greco Tsipras incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande a margine del vertice UE di domani a Riga. A loro Tsipras illustrerà di nuovo i gravi problemi di liquidità che Atene si trova ad affrontare e chiederà, oltre a un accordo unico, anche una soluzione politica per la questione del debito entro la fine di maggio. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Migliorare la trasparenza e il controllo per legiferare meglio, è questo lo spirito con cui la Commissione europea ha approvato ieri un pacchetto di riforme sulla cosiddetta Better Regulation Agenda. In particolare si tratta di aumentare la qualità delle nuove leggi attraverso valutazioni di impatto dei progetti di legge, promuovere la revisione costante e coerente delle normative esistenti in modo che le politiche comunitarie raggiungano i loro obiettivi in modo più efficace. Al microfono di Sergio Nava, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, ci parla del progetto dedicato alle piccole e medie imprese. Abbiamo avuto molto critiche delle imprese, delle piccole e medie imprese, che adesso è diventato troppo complicato. Dunque proviamo adesso di migliorare la qualità delle nostre proposte. Come concretamente? Creare una trasparenza completa e avere il contributo della gente che in pratica deve lavorare con queste leggi. Questo messaggio anche per le piccole e medie imprese che spesso si lamentano della regolamentazione europea. Loro sono i miei amici, io voglio veramente fare qualcosa per le piccole e medie imprese perché loro soffrono troppo oggi. Non è soltanto un problema che è creato qui nell'Unione Europea, è anche un problema creato dagli Stati membri loro stessi. Dunque abbiamo un compito insieme con gli Stati membri per migliorare la qualità delle leggi. In pericolo in Italia dune, paludi e foreste, ma anche ambienti di acqua dolce, coste e praterie che fanno parte della rete dei siti protetti europei legati alla direttiva Habitat. A lanciare l'allarme è l'ultimo rapporto di Bruxelles intitolato State of the Nature, che rileva un notevole peggioramento della salute di questi habitat in Italia fra il 2007 e il 2012. Restiamo sui temi ambientali. Promosse le spiagge europee, acque balneabili sempre più pulite in Europa, dove l'83% di spiagge, laghi e fiumi risulta di qualità eccellente e il 95% in regola. A scattare la fotografia è l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'AEA, sulla base dei dati del 2014. L'Italia si colloca al 7° posto, era all'8° nei 2 anni precedenti, nella classifica del top 10 della qualità guidata da Cipro, Lussemburgo e Malta. Seguono Grecia, Croazia e Germania, mentre l'ultima è l'Albania. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.